Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Cortei in tutta Italia per lo sciopero sociale, lanci di uova e fumogeni, scontri a Padova e Milano, feriti alcuni agenti, bloccata la tangenziale di Napoli. Polemiche sulla decisione del Comune di Roma di spostare i rifugiati da Tor Sapienza, ne parleremo più avanti con l'assessore. 17 minori tornano a piedi nella struttura. Niente crescita nemmeno nel terzo trimestre, il PIL italiano si conferma in calo dello 0,1%, in lieve risalita l'economia tedesca e quella francese. Salta alla panchina di Mazzarri, il nuovo allenatore dell'Inter sarà Mancini, per lui un contratto di 2 anni e mezzo. La sonda della missione Rosetta ha iniziato a scalfire la superficie della cometa, con un trapano progettato e realizzato in Italia. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, come sempre se volete le potete commentare al 349-238-6666 via sms, scrivendoci a effettogiorno@radio24.it, c'è anche la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Iniziamo da questa giornata di proteste di piazza e di cortei, iniziando a fare un quadro generale, poi andremo nel dettaglio su Roma e su Milano, appunto il quadro generale con la nostra Katia Caramelli in studio. Buongiorno Katia. Sì, buongiorno. Sono più di 20 i cortei organizzati in tutta Italia per lo sciopero sociale, con notevoli disagi ovviamente per la mobilità, disagi aggravati dall'agitazione che ha coinvolto proprio i trasporti pubblici. Cominciamo da Padova, dove ci sono stati scontri davanti all'università tra i partecipanti al corteo che cercavano di raggiungere la sede cittadina del PD e la polizia. Alcuni agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti, tra loro anche il capo della squadra mobile che ha ricevuto un colpo alla testa. A Napoli il corteo di manifestanti lo aveva annunciato e ha bloccato la rampa d'accesso alla tangenziale del capoluogo campano e ora si sta dirigendo verso i caselli autostradali. Mazze, bastoni, fumogeni, petardi sono stati invece sequestrati dalla Digos su un furgone del gruppo Studenti Indipendenti questa mattina a Torino, dove sono anche state lanciate uova contro la sede del MIUR. Notevoli i disagi infine per traffico e viabilità a Genova, dove oltre ai 5 cortei in città un gruppo di lavoratori di AMT, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico, ha bloccato l'accesso al casello autostradale di Genova Est, blocco ora tolto ed è tutto. Grazie Katia Caramelli per questi aggiornamenti generali. Andiamo su due situazioni di dettaglio. Innanzitutto Roma, dove Francesco De Remigis, ci sembra di capire la situazione è abbastanza tranquilla. Eccoci, buongiorno. Buongiorno, la situazione è tornata tranquilla dopo dei primi attimi di tensione al momento in cui è partita la manifestazione principale. Ricordiamo che c'è un corteo principale che si è spostato questa mattina alle 11 da Piazza della Repubblica e terminerà intorno alle 14 per poi trasferirsi davanti al Ministero della Pubblica Istruzione. Sono stati dei piccoli incidenti davanti all'ambasciata tedesca, un lancio di petardi e dei fumogeni e dei bomboletti di colore rosso hanno un po' imbrattato la strada, anche gli scudi delle forze dell'ordine, ma al momento gli studenti sembrano calmi, soltanto parecchi insulti contro il governo. Ricordiamo che la manifestazione prende di mira soprattutto il job act di Matteo Renzi e proprio contro Renzi sono i cori più aggressivi. Renzi, il ministro Madia, il ministro Boschi dicono questa generazione di politici non ci rappresenta, vorrebbe farlo, ma dovrebbe cancellare tutto quello che ha fatto fino a questo momento per assecondare le nostre volontà. Quindi più lavoro non con il job tax ma attraverso un procedimento di assunzione a tempo indeterminato e basta con il precariato. Frasi già ascoltate che continueremo ad ascoltare anche più avanti. Ricordiamo che ci sono anche molti precari, non solo gli studenti, in questo corteo che si ricongiungerà con altri team presenti in Campidoglio e in altre zone di Roma, dove i disagi sono anche dovuti a uno sciopero dei mezzi pubblici che si protrarrà fino alle 14 di oggi. Gli studenti hanno uno dei loro rappresentanti, Alberto Campailla, presidente del Movimento Nazionale Link Coordinamento Universitario. Ascoltiamolo. Questa alleanza tra studenti, precari, tra lavoratori, tra quelli che il governo chiama garantiti e non garantiti, è un'alleanza duratura che serve per rompere l'incantesimo che Renzi sta costruendo. Che cosa chiedete di cambiare al Jobs Act? Sul Jobs Act noi pensiamo una cosa semplice: uno, bisognerebbe abolire le 46 formalità. norme contrattuali e ridurle drasticamente. C'è bisogno di introdurre un reddito minimo garantito, c'è bisogno che pensiamo anche un'altra cosa, che non è solamente cambiando il mercato del lavoro che si ricostruisce nuova occupazione. Per fare quella cosa c'è bisogno di investimenti pubblici in ricerca, investimenti pubblici in innovazione. Questo governo, e Renzi in particolare, che tanto parla di innovazione, non ha messo neanche un euro, invece taglia alla ricerca, perché noi pensiamo che solo così può ripartire questo paese, solo così si può costruire nuova occupazione. Grazie a Francesco De Remigis da Roma. Il punto da Milano con Valentina Furlanetto. Valentina. Sì, buongiorno Simone. Oggi al corteo dei metalmeccanici da Piazza Venezia a Piazza Duomo a Milano tutto si è svolto abbastanza tranquillamente, alcuni petardi, ma niente di più. Gli scontri ci sono stati invece dietro Piazza Duomo, in Via Larga, in Piazza Santo Stefano, dove una manifestazione di studenti antagonisti si è scontrata con le forze dell'ordine che impedivano l'accesso verso il Duomo. Gli studenti schierati dietro uno striscione con dei caschetti addosso hanno cercato di forzare il cordone composto dagli agenti dei carabinieri che li hanno respinti. Al momento non è chiaro se ci siano dei feriti, non è stata una vera e propria carica quella delle forze dell'ordine, si sono limitati a respingere all'interno della piazza il corteo, parlo di Piazza Santo Stefano. Intanto dicevamo parlavano in Piazza Duomo la leader della CGIL Susanna Camusso e quello della FIOM Maurizio Landini, si sono visti anche il presidente della regione Puglia Nicchi Vendola, l'esponente del PD Fassina, e c'era anche Antonio Pizzinato, 82 anni, storico segretario generale della CGIL. Una piazza piena di cinquantenni in realtà, e se le modifiche introdotte in commissione lavoro al Jobs Act abbiano cambiato qualcosa, le modifiche recenti, Maurizio Landini della FIOM ha risposto così. Quella possibile mediazione che il PD avrebbe trovato è una presa in giro, perché serve semplicemente a quei parlamentari per difendere il loro posto, non serve ai lavoratori e ai diritti, e noi non ci fermiamo, e si deve sapere che noi andremo avanti fino a quando non li abbiamo fatto cambiare idea. La partita non è assolutamente chiusa, gli ha fatto eco Susanna Camusso, che ha lanciato anche la proposta di una patrimoniale. Per ora è tutto. Grazie Valentina Furlanetto anche a te per questi aggiornamenti. Come avete sentito, il tema centrale è quello del lavoro, e su questo tema c'è uno scontro all'interno della maggioranza tra il nuovo centrodestra e il Partito Democratico. Ma prima di passare a questo c'è una notizia che riguarda proprio i temi del lavoro, e il responsabile economico del PD, Filippo Taddei, è sotto tutela, si è preso questa mattina per una serie di minacce ricevute via social network e con biglietti trovati nei pressi della sua casa di Bologna, dove ci sono anche la moglie e i tre figli. Tutto questo si diceva appunto mentre la maggioranza discute sulla riforma del mercato del lavoro. Elisabetta Fiorito, eccoci, buongiorno. Sì, Simone, si discute, diciamo che è un governo stretto tra piazza, parte della minoranza PD e la destra. Intanto cominciamo proprio da stamattina, perché alle critiche del segretario CGIL Susanna Camusso risponde il presidente del PD Matteo Orfini con una nota polemica. Ragiona Camusso: la mediazione del PD sul Jobs Act non difende i diritti, ma li estende. Al segretario della FIOM Maurizio Landini risponde invece Ettore Resate: il Jobs Act serve all'Italia, il resto è polemica inutile. L'accordo stretto ieri comunque in commissione lavoro sembra non bastare ai più critici dei democratici, tra cui Rosi Bindi: non sono molto contenta di questo accordo, e lo guarderà nel dettaglio per vedere anche che cosa è cambiato sull'articolo 18. C'è poi il nuovo centrodestra che abbiamo sentito insorgere, e qui proprio Filippo Taddei, che tu hai citato, responsabile economico DEM, rassicura il partito di Alfano: quando dalle dichiarazioni si passerà al provvedimento tutti si sentiranno rassicurati. Scettica anche Scelta Civica, mentre dall'opposizione Renato Brunetta di Forza Italia incita ad una rapida approvazione e dice: vediamo se saranno pronti poi i decreti attuativi. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Antonio Agostini, segretario generale del Ministero dell'Ambiente, in procinto di diventare capo dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare, è indagato a Roma. Le accuse: abuso d'ufficio e turbativa d'asta. Rischia di finire sotto processo in relazione all'assegnazione di fondi comunitari da parte del MIUR per progetti di ricerca. E sempre a fronte della cronaca giudiziaria che incrocia la politica, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo in relazione alla denuncia denuncia presentata da deputati del Movimento 5 Stelle sul presunto utilizzo improprio da parte di Roberta Pinotti, ministro della Difesa, di un volo di Stato. Nel procedimento, al momento contro ignoti, si ipotizza il reato di peculato d'uso. Pinotti, accusata dai deputati 5 Stelle di aver utilizzato un volo di Stato per tornare a casa sua in Liguria, lei dice era un volo di addestramento che comunque doveva fare quel tragitto. Vedremo come andrà a finire. Intanto ci spostiamo a Tor Sapienza, altro luogo di tensione, periferia della capitale, dove alcuni dei minorenni del centro rifugiati, contro il quale è in corso una protesta dei residenti, sono tornati nella struttura, ci sono tornati a piedi. Alessandra Schepisi è là. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Qui la rabbia dei cittadini contro gli immigrati, ma anche contro le istituzioni, resta ai massimi livelli, anche se le tensioni dei giorni scorsi sembrano essersi smorzate, tensioni che ricordiamo erano culminate anche negli scontri con le forze dell'ordine, lanci di bottiglie, sassi, cassonetti incendiati. Di lì la decisione di trasferire gli ospiti del centro di prima accoglienza di via Morandi, mi trovo proprio qui davanti, e in particolare 36 migranti minori erano stati portati in altri centri nel pomeriggio di ieri per motivi di sicurezza. Ebbene, 14 di loro, come dicevi anche tu, sono tornati questa mattina con le loro valigie, ma poco dopo sono stati in realtà caricati su un pullman e riportati via. Ci sono state anche, appunto, per questo motivo, per il fatto che erano ritornati, le proteste di molti cittadini che però ci tengono a sottolineare: noi non siamo razzisti, siamo solo esasperati. E qui l'area permane vigilata, ci sono 4 blindati delle forze dell'ordine, all'interno del centro si trovano 34 migranti adulti, era atteso anche Borghezio, il quale ha però deciso, per senso di responsabilità, così ha detto, di incontrare i cittadini, alcuni cittadini, in un bar di Tor Sapienza e di non farsi vedere qui. La situazione, diciamo, è più tranquilla, occhi puntati invece su domani, perché mattinata le periferie romane si sono date appuntamento per una marcia della ribellione dei rioni dei quartieri di Roma contro il degrado e la criminalità, un appuntamento in realtà organizzato da tempo, ma che evidentemente adesso porta con sé tutto il carico di tensione delle violenze dei giorni scorsi a Tor Sapienza. A te, Simone. Grazie Alessandra Schepisi, e torneremo a parlare di tutto questo e anche delle polemiche per la decisione del Comune di spostare questi rifugiati con l'assessore ai lavori pubblici e lo sviluppo delle periferie Paolo Masini più avanti nel corso di Effetto Giorno. E ancora allerta 2, la massima in Liguria a causa delle perturbazioni. L'allerta 1, che era annunciata da stasera alle 21 alle 24 di domani, è stata trasformata di nuovo in allerta 2. Allerta 2 che riguarda tutta la regione. È previsto un peggioramento delle condizioni meteo a partire da domani praticamente su tutto il nord e nell'area tirrenica. Ce lo segnala anche un ascoltatore che ci scrive via SMS, Max, che dice: ci sentiamo in gabbia ad ogni perturbazione di passaggio a Genova. Nessuno ne parla, come vede noi ne parliamo, e come sa stiamo facendo un viaggio in Genova colpita dall'alluvione. Comunque anche questo è un tema sicuramente. Abbiamo parlato molto di lavoro, parliamo di PIL, perché come nelle attese anche la crescita del terzo trimestre italiano è negativa. Nel confronto perdiamo ancora terreno sulla crescita e dopo la nuova contrazione del PIL italiano nel terzo trimestre dell'anno con un meno 0,1%, dato corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, l'Istat rileva che la variazione acquisita per il 2014 è pari a meno 0,3%. Anche nei confronti del terzo trimestre dell'anno scorso il segno è meno, giù dello 0,4%. Il calo congiunturale, sottolinea l'Istituto di Statistica, è la sintesi di una diminuzione nel comparto dell'agricoltura e dell'industria e di un aumento nei servizi, e dal lato della domanda il calo nazionale è parzialmente compensato dalla componente estera. Nello stesso periodo, invece, c'è stato un rimbalzo oltre le attese per l'economia della Francia. Nel terzo trimestre, il PIL francese è cresciuto dello 0,3% sui tre mesi precedenti, fermi a meno 0,1%. La spesa aumenta per i consumi delle famiglie e soprattutto per quelli del pubblico, ma torna a crescere, come previsto, anche il PIL della Germania nel terzo trimestre dello 0,1%, dopo la battuta d'arresto, stessa percentuale ma in negativo, del trimestre precedente. Qui, spesa delle famiglie è aumentata considerevolmente e commercio con l'estero hanno trainato la locomotiva d'Europa. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È certo che anche i temi dell'economia europea saranno al centro del G20, che si riunisce a Brisbane, dove si trova l'inviato del Sole 24 Ore, Alessandro Merli. Alessandro, che cosa dobbiamo attenderci? Buongiorno. Beh, c'è un voluminoso piano d'azione preparato dalla presidenza australiana che contiene ben 1000 misure predisposte dai 20 di riforme strutturali che dovrebbero rilanciare la crescita dell'economia mondiale, che come sappiamo è piuttosto asfittica. Ora, se queste misure resteranno poi solo sulla carta o se effettivamente avranno qualche impatto nei prossimi anni, l'obiettivo è quello di fare aggiungere crescita pari al 2% da qui al 2018, resta un po' tutto da vedere, come sempre la prova è nella messa in atto poi di queste misure, non tanto negli annunci che fanno fare bella figura ai padroni di casa, ma non è detto che poi siano efficaci. Insomma, la risposta di politica economica a una situazione dell'economia mondiale che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi è peggiorata, è ancora tutta da valutare. E certo l'Europa è considerata in questo momento un po' l'anello debole di questo quadro già non brillante dell'economia mondiale. Grazie Alessandro Merli, inviato del Sole 24 Ore a Brisbane. Abbiamo sentito i dati sul prodotto interno lordo, dati che ha anche commentato il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi questa mattina ad un appuntamento importante che è quello di Orienta Giovani. C'è là a Reggio Emilia Valeria De Rosa, la nostra inviata. Valeria, eccoci. Sì, buongiorno Simone. Allora, come dicevi, i dati, la realtà dei dati è arrivata anche qui a Reggio Emilia poco prima che arrivasse il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Il dato sul PIL, sentiamo subito il suo commento. I presupposti c'erano già dai mesi scorsi, quindi eravamo ormai preparati, psicologicamente preparati. Speriamo che questo non vada a impattare sul rimbalzo l'anno prossimo. Questo è il vero problema, che nonostante, diciamo, le affermazioni, il presidente si è detto comunque ottimista, così come ottimisti sono gli imprenditori. Alla fine del tunnel ci sarà una crescita, ottimismo soprattutto da passare alle nuove generazioni, all'appuntamento di oggi di Orienta Giovani, che è un po' il momento per mettere insieme gli imprenditori, i giovani studenti e gli apprendisti, e per capire un po' quale futuro può offrire questo paese a l'interesse delle imprese è quello di accogliere giovani sicuramente preparati. Era presente stamattina anche il vicepresidente di Confindustria per l'Education, Ivan Lobello, il quale ha ricordato come in Germania la disoccupazione giovanile sia al 7%, mentre in Italia supera il 40%, e questo perché in Germania esiste un sistema duale scuola-lavoro, cosa che qui in Italia ancora non ha preso piede, e questa dovrebbe essere la via da seguire. Per il momento da Reggio Emilia è tutto. Grazie Valeria De Rosa. Il calcio ora, ufficializzato poco fa, Mazzarri esonerato. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, 12.42 mi sembra sia l'ora del comunicato ufficiale dell'Inter. Mazzarri esonerato, dunque vince la piazza che non lo sopportava più. Roberto Mancini in arrivo, una grande quantità di denaro che Tohir dovrà sborsare per questo cambio di allenatore, perché sappiamo che Mazzarri ha sotto contratto fino al giugno 2016, abbiamo fatto due conti, circa 31 milioni di euro costerà questa storia alla voce allenatori. Mancini arriverà con un contratto di 2 anni e mezzo, 3 milioni a stagione, però il senso di tutto questo è che, insomma, Tohir nella notte ha deciso, e tra la tarda serata di ieri sera e questa mattina, appunto, la panchina dell'Inter è saltata e Mancini guiderà i nerazzurri nel derby tra una settimana. Interisti convocati come tutti gli altri a partire dalle 14, appunto. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Cortei in tutta Italia per lo sciopero sociale, lanci di uova e fumogeni, scontri a Padova e Milano, feriti alcuni agenti proprio a Padova, bloccata la tangenziale di Napoli. Niente crescita nemmeno nel terzo trimestre, il PIL italiano si conferma in calo dello 0,1%, in lieve risalita l'economia tedesca e quella francese. Salta la panchina di Mazzarri, il nuovo allenatore dell'Inter sarà Mancini, per lui un contratto di 2 anni e mezzo. La sonda della missione Rosetta ha iniziato a scalfire la superficie della cometa con un trapano progettato e realizzato in Italia. Un'ultima notizia appena battuta dalle agenzie con grande evidenza, ve la diamo com'è naturalmente. Renato Vallanzasca, protagonista come sapete della mala milanese, è stato condannato a 10 mesi al tribunale di Milano con l'accusa di tentata rapina impropria per aver rubato 2 paia di mutande. Passiamo ad argomenti seri. Paolo Masini, assessore ai lavori pubblici e allo sviluppo delle periferie del Comune di Roma, buongiorno, benvenuto. Salve, buongiorno a voi. C'è stata un po' di polemica sulla scelta del comune, assessore, di spostare i rifugiati che si trovano nel centro, poi 17 ne sono tornati, come abbiamo sentito dalle cronache, di spostare i rifugiati, cioè una sorta di cedimento alla piazza è stato considerato in questo senso? No, tutt'altro, ci mancherebbe. Non è un cedimento alla piazza, ma un atto dovuto. La situazione era diventata insostenibile proprio per la sicurezza e la tutela, tra l'altro quelli sono minori, abbiamo ritenuto opportuno fare così. Adesso cerchiamo di creare un clima idoneo e poi vedremo. Tra l'altro inizialmente mi è sembrato di capire che si volessero spostare tutti i rifugiati, o l'idea è stata sempre di spostare solamente i minori? Per ora là le competenze sono varie, ma noi abbiamo sempre pensato solo ai minori perché erano quelli più a rischio in quella situazione. Noi abbiamo il diritto di tutelare i minori non accompagnati, cioè lì sono sotto la tutela del Comune di Roma, siccome si era creato, come è noto, una situazione molto delicata, abbiamo ritenuto opportuno fare così. Senta, assessore, lei in realtà non ha, come dire, la delega specifica a trattare di questi temi. Quando parliamo di sviluppo delle periferie, lei ha la delega in realtà sui lavori che si possono fare in periferia per cercare di migliorare la situazione. Quando ci fu la campagna elettorale, il sindaco disse che le periferie erano la sua priorità. Ora ci siamo trovati in una situazione, come dire, di forte tensione, posto che Roma avrà anche i suoi problemi di bilancio, come ben sappiamo, però in qualche modo bisogna muoversi, credo, no? Beh, assolutamente, ma è quello che stiamo facendo. Guardi, anche dalle analisi, stamattina c'era un responsabile del Censis che parlava proprio di questo, dalle analisi che vengono si legge appunto di un problema ormai quasi ventennale rispetto a alcune questioni, e noi stiamo cercando di lavorare su quelle, cioè rimettendo in campo tutte le azioni possibili per far recuperare il tempo perduto in questi anni. Le ultime cose, per dire proprio l'ultimissima, sono state fatte nemmeno 10 giorni fa, è l'apertura del corridoio della mobilità a Laurentino e l'apertura dopo tantissimi anni della metro C, che lega proprio in quel quadrante, il quadrante S di Roma, vari quartieri di periferia. E pertanto stiamo recuperando man mano, tra l'altro anche dal punto di vista della dignità, diciamo, attraverso le reti fognarie stiamo realizzando, dopo 30 anni che mancavano appunto, tutta una sorta di rete fognaria nel quartiere di Tragliata, grazie anche a un grande lavoro con i consorzi e con i cittadini, e stiamo riattivando una serie di programmi di recupero urbano che erano fermi da 10 anni. Pertanto stiamo, come dire, scrollando, facendo un elettroshock a tutte le iniziative ferme in questa città da anni, e nel contempo cercare di ricreare un sano tessuto sociale con tutte le realtà positive che nei vari quartieri di periferia abitano. Allora, Paolo Masini, assessore ai lavori pubblici e allo sviluppo delle periferie, io la ringrazio per il suo intervento, le auguro buon lavoro, posto che a un certo punto verremo a controllare che cosa effettivamente è successo. Magari, venite con noi tutti i giorni, ci siamo. Grazie, grazie, grazie Paolo Masini. Grazie Paolo Masini. Maurizio Sacconi, ex ministro del welfare, senatore del Nuovo Centrodestra, presidente della Commissione Lavoro in Senato. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, gli ascoltatori. Allora, prima ancora di chiederle che cosa non va in questo rapporto col Partito Democratico sulla riforma del mercato del lavoro, le voglio chiedere un commento alla notizia di questa mattina che evoca momenti che lei ha vissuto anche personalmente. Il responsabile economico del Partito Democratico, Filippo Taddei, è da ieri, da quel che abbiamo appreso, sotto tutela, perché ha ricevuto minacce probabilmente relative alla riforma del mercato del lavoro, che sono arrivate anche sotto casa sua. Vorrei una sua valutazione, un suo commento. Ma devo dire benvenuto a Renzi e ai suoi collaboratori nella dimensione socialdemocratica, cioè in quella dimensione che unitamente a quella liberal popolare hanno sempre conosciuto una radicale opposizione a destra come a sinistra. Oggi non a caso c'è, al di là di, c'è una grande manifestazione di Landini, da un lato ci sono le continue contestazioni di Salvini, e quindi e poi in questo clima ci possono essere anche radicalismi peggiori che possono pensare di inserirsi, cioè nell'esperienza italiana continua ad esserci la criminalizzazione di chi cerca la composizione nel nome del bene comune fra le diverse esigenze, quella della tutela del lavoro e quella della flessibile competitività dell'impresa, ma penso che questi antagonismi debbano essere una ragione in più per andare avanti. A proposito invece proprio della riforma del mercato del lavoro, cosa c'è che non va nell'accordo che hanno trovato minoranza e maggioranza del Partito Democratico? In realtà da ieri negoziamo e negoziando con il governo, perché il nostro interlocutore è il governo che riuscire ad operare una sintesi nell'ambito della maggioranza, credo che avremo alla fine una soluzione concordata che conserva l'impostazione individuata comunemente al Senato, nel senso che rimarrà quell'impulso innovativo ai contratti a tempo indeterminato, non verranno modificate per esempio le regole relative alla maggiore flessibilità delle mansioni, non si modificheranno le regole che vogliono allargare l'impiego dei voucher per dare anche giusta tutela agli ispezioni lavorativi, e sulla stessa disciplina del licenziamento resteremo sostanzialmente nell'impostazione del Senato, che già prevedeva i licenziamenti discriminatori soggetti a reintegrazione, perché nulli, perché ove riconosciuti tali sono nulli, come non ci siano stati, e dall'altra parte gli si assimileranno alcune limitatissime tipologie di licenziamenti disciplinari, non i licenziamenti disciplinari. Questa è la nostra tesi e credo che mi sta dicendo che l'accordo è ad un passo, mi sembra di capire. Ci stiamo parlando, non è ancora fatto, ma mi pare che ci sono tutte le condizioni per raggiungerlo. Il governo mi ha dato assicurazioni che non vuole attenuare la portata innovativa della riforma, proprio perché risulti efficace a fare lavoro e anche a fare impresa, a incoraggiare la propensione a fare impresa e quindi anche ad assumere. Grazie a Maurizio Sacconi, Presidente della Commissione Lavoro in Senato, ex Ministro del Welfare e Senatore del Nuovo Centrodestra. Buona giornata. Buona giornata. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo con la Borsa e poi subito dopo l'inchiesta di Daniele Biacchesi. Oggi è un'intervista con un giornalista, si tratta di Lirio Abate, che ha subito nuove minacce e nuove intimidazioni. Intanto ci fermiamo e poi i mercati. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Cortei in tutta Italia per lo sciopero sociale, lanci di uova e fumogeni, scontri a Milano e a Padova. Qua sono stati feriti alcuni agenti, tra cui il capo della Mobile. È stata bloccata la tangenziale di Napoli. Schiarita nella maggioranza intanto sulla riforma del mercato del lavoro, Sacconi dice: ho ricevuto rassicurazioni dal governo, sono fiducioso sull'accordo. Come avete sentito, l'ha detto poco fa a Effetto giorno. 17 minori tornano a piedi nel centro rifugiati di Tor Sapienza, dal quale erano stati spostati ieri. Niente crescita nemmeno nel terzo trimestre, il PIL italiano si conferma in calo dello 0,1%. Salta la panchina di Mazzarri, il nuovo allenatore dell'Inter sarà Mancini, contratto per 2 anni e mezzo. La Borsa. Borse in diretta. Ed è una giornata piuttosto positiva, con il FTSE MIB che guadagna lo 0,2%, il FTSE All-Share lo 0,21%, mentre le altre piazze finanziarie europee portano dei segni meno. Parigi meno 0,08%, Francoforte meno 0,28%, Londra meno 0,24%. Eleonora Micheli, Radio Cuore, il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, come mai va bene Milano e le altre sono negative? Milano va bene, ma una manciata di minuti fa in verità perdeva lo 0,4%, faceva addirittura peggio di altre borse, quindi la parola chiave è volatilità per la giornata odierna. I dati del resto macroeconomici convincono poco, con il PIL che nel terzo trimestre nella zona euro è cresciuto dello 0,8%, ma soprattutto preoccupa l'inflazione che alla fine su base annua ha registrato un incremento solo pari allo 0,4% in tutta Europa. Poi i dati italiani fanno ancora più paura, perché ancora il PIL nel terzo trimestre è rimasto negativo. Singoli titoli: Unipol Sai guadagna il 7,3%, Autogrill il 4,8%, Ferragamo il 3,7%, Finmeccanica il 2,9%, Saipem il 2,03%, in fondo al listino Mediolanum il 2,55%, era andata bene ieri, Mediaset giù dell'1,36%, Popolare Emilia Romagna dell'1,28%, Enel Green Power dell'1,20%, Atlantia dell'1,09%. Grazie Eleonora Micheli, Radio Cuore, il Sole 24 Ore, e buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E veniamo ad una storia, la storia di uno dei più importanti cronisti d'inchiesta italiani che vive da anni sotto tutela. È il giornalista del settimanale L'Espresso, Lirio Abbate, viene da Palermo e prima per l'Ansa poi per L'Espresso si è occupato delle indagini sulle cosche siciliane fin dagli inizi della sua carriera. Da Palermo è dovuto fuggire, da qualche anno si è trasferito a Roma, nella capitale ha iniziato un lavoro sulla criminalità romana e i suoi boss sopravvissuti alla mattanza della cosiddetta banda della Magliana negli anni 80 e 90. Nella notte tra martedì e mercoledì una Renault Clio ha speronato l'auto blindata sulla quale viaggiavano il cronista e la sua scorta. Uno dei passeggeri è fuggito, l'altro è stato fermato. È un ventenne incensurato che è stato interrogato ma non ha aperto bocca. Delle sue ultime inchieste Abbate aveva parlato proprio martedì sera durante la puntata di Ballarò. Intimidazioni fascio mafiose, dice a Daniele Biacchessi, il cronista dell'Espresso. Siamo stati inseguiti da un'auto nel centro di Roma e speronati. Quest'auto ha tentato una fuga e i ragazzi della scorta sono riusciti a bloccare uno degli inseguitori e scoprire che è un ventenne incensurato su cui adesso indaga la squadra mobile di Roma. Però ci sono episodi, elementi precedenti che non avevamo mai reso pubblici, di cui sono stato oggetto, come ad esempio il posizionamento di un'auto rubata con dei proiettili dentro a me indirizzati, posizionata davanti l'ingresso della redazione dell'Espresso Repubblica. A metà settembre, in coincidenza con l'uscita di un'inchiesta sui fascio mafiosi a Roma. Tu non sei nuovo purtroppo, sei passato cioè dalle minacce di Cosa Nostra a Palermo, da cui sei sostanzialmente fuggito, a quelle invece di una criminalità organizzata che sta nella capitale e che però ha contatti con la politica. Sì, infatti quella di Roma è difficile da identificare, la criminalità organizzata, la mafia, perché ha un volto di gomma, è difficile da identificare, da vedere, non si rappresentano con la coppola e la lupara. A Palermo puoi benissimo individuarli, sai davanti chi c'hai, ma a Roma è difficile. A Roma scopri dei retroscena criminali di una nuova mafia che ancora giudiziariamente non è stata accertata proprio per la grande difficoltà che c'è nel volerla intanto ricercare e poi provarne l'associazione, e forse mettendo le mani proprio su quello che il territorio ti offre e ti dice, perché documentalmente sul territorio hai tante possibilità di trovare questi elementi e che ti conducono a ex NAR, ex estremisti di destra, collegati con uomini d'affari, con la politica che fino a poco tempo fa governava anche la città. Documentalmente è difficile da provare il collegamento fra questi uomini e apparati deviati dello Stato. E sa di fatto che il leader ancora oggi a Roma di questi estremisti di destra, che in qualche modo ha cambiato pelle, ha cercato di trasformarsi, che si chiama Massimo Carminati, ha nel suo passato un curriculum criminale di tutto rispetto e che a Roma hanno paura addirittura di nominarlo, di nominare il suo nome. Via libera all'attivazione del trapano che perforerà la superficie della cometa. Parliamo naturalmente della missione Rosetta. È partito il comando che attiva il trapano e lander di Rosetta inizia dunque a perforare la cometa Churyumov-Gerasimenko, sulla quale file è atterrato dopo 10 anni di viaggio. Quella di oggi è un'altra tappa fondamentale di questa avventura spaziale gestita dall'ESA. Il trapano, progettato e realizzato dagli italiani del Politecnico di Milano con a capo una donna, la professoressa Amalia Ercoli Finzi, perforerà la superficie della cometa. La decisione è stata presa considerando che le batterie potrebbero non durare a lungo nella scomoda posizione in cui si trova file, infatti illuminato un unico pannello solare. Così si comincia. Già ieri file aveva fotografato una collina e rocce dove si pensava ci fossero solo polveri. Sono le prime immagini inviate dalla cometa, immagini che emozionano tutti perché sono l'apertura di possibilità inaspettate. Quella di Rosetta per intero è una storia incredibile, geniale, gigantesca, precisa e anche un po' folle, fatta di tempi d'attesa e ritorni di fiamma. 10 anni fa è partita per raggiungere una cometa dalla quale qualche ora fa si è anche